Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Sciori, sciori, sciorizzi tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Sciori, sciori, sciorizzi tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Fare saltare Lucia Borsellino dalla giunta per poi fare saltare me. Questo è il tema, travolgere. Quella famigerata intercettazione, ieri lo vuoi, lo ha ribadito, non c'è, non c'è, non c'è. Cosa ne pensi? Anche chi ribadisce c'è, c'è, c'è. E quindi che si mettano d'accordo e ci dicano la verità. Lei ha sentito Crocetta, il quale dice di essere vittima di un attacco mediatico senza precedenti? Ascoltare, non voglio ascoltare, di parole ne ho ascoltate troppe, io voglio solo fatti. Era Rita Borsellino. Se l'Espresso c'ha le prove, che le metto fuori. Io sono io addirittura che chiedo al governo nazionale di aprire una commissione d'inchiesta su questo per verificare chi può aver fatto queste cose. Ho vissuto come un lebbroso, avevo persino paura di uscire, di guardare in faccia la gente. Fino alle ore 17 di quel giorno, che non ricordo più manco qual è, perché non so manco che giorno è oggi, io avevo il terrore fino a quando sono uscite le comunicazioni della procura. E stavo meditando di ammazzarmi, anzi pensavo solo al modo come ammazzarmi. Crocetta è uno che non ama mai le mezze misure. Stavo pensando al modo in cui ammazzarmi quel giorno lì. Oggi fa un'intervista a Repubblica. Per la verità, su Repubblica parla anche Lucia Borsellino. Ma Crocetta dice: quello che si sta verificando è il fatto più ignominioso della storia d'Italia. Cioè, voi pensate, che ne so, che il fatto più ignominioso della storia d'Italia possa essere, non lo so, il fascismo? Non lo so, ditemi, suggeritemi. Le fosse ardeatine, il terrorismo, gli anni del terrorismo. Che suggerite? Il triplete dell'Inter. Okay. No, invece quello che si sta verificando su di lui, contro di lui, è il fatto più ignominioso della storia d'Italia. Al confronto, il caso Boffo era roba per ragazzini. Tra l'altro Crocetta dice: guardate che tutta una bufala, da mesi mi dicono che pezzi di servizi deviati, cioè servizi segreti, costruiscono finti dossier sul mio conto con le notizie più incredibili, i miei rapporti sessuali con Tutino, cioè quel medico arrestato, le tendenze pedofile, fino a problemi con la polizia in Tunisia. Insomma, in pratica Crocetta ci ha anticipato quello che leggeremo nei prossimi giorni, evidentemente. Ma io sono felice perché abbiamo un siciliano con noi, un siciliano verace, un siciliano docuno che ci aiuterà a capire tutto. Ci dirà in questo momento, alle 6:33 minuti, se è vero, se ha ragione Crocetta o ha ragione l'Espresso. È Vincino. Buongiorno Vincino, come stai? Buongiorno, bene. Tutto bene, benissimo. Tutto bene. Tutto a posto. Allora, questa intercettazione è... No, questo mi senti? Sì, benissimo. Sì, bene. L'intercettazione, quella di cui parla l'Espresso, non lo so perché non l'ho sentita. No, comunque qualsiasi direttore, però, prima di pubblicare un'intercettazione, sì, l'ascolta lui personalmente. Ah. No, del relato. Però quelle invece già uscite, ci sono delle cose terribili. Questo dottor Tutino che va a portare a Crocetta la lista dei fedelissimi. La lista dei fedelissimi per nominare dirigenti amministratori del Lazio. Sì, ma sì, che gli servono i fedelissimi? Vabbè. Ma che cosa? Cioè, per dire, Cesare, quando chiamò e fece la riunione con i fedelissimi al lidi di marzo, sì, frac, i fedelissimi tradiscono sempre. Infatti. Cosa insopportabile. Però Crocetta dice, io ho solo chiesto informazioni su alcuni nomi. Ho solo chiesto. Ma come dire, ma informazione qua, ma che l'assessore alla sanità era lui o era Lucia Borsellino? E infatti Lucia Borsellino fa un'intervista a Repubblica dicendo poi, tramavano. Tramavano, cioè proprio la mettevano in grado, questo dottor Tutino, fidando sull'amicizia, il fatto che andava a levare i punti e mettere i punti a Crocetta. Tra l'altro questa cosa qua è insopportabile, cioè non sì, è che tu puoi usare il pubblico coso. Cioè, come vabbè, dire, quindi sono le sei, sono appena le 6:35. No, ma aspetta, sono appena le 6:35. Abbiamo stabilito che Crocetta è colpevole. Eh? È colpevole. No, non è colpevole, no. È colpevole di aver cresciuto intorno a sé questi qua che facevano traffico di influenze, questi qua che facevano liste di fedelissimi in politica, ecco. La lista dei fedelissimi è insopportabile, la faranno tutti. Per me è insopportabile, gnomino. Ma oggi sento la mia voce un po' strana nelle cuffie, ma è tutto a posto. No, sento la mia voce un po' strana nelle cuffie, non lo so, sarà che mancano tre giorni. Un po', che ne so, un po' sì, è vero. Ma infatti anche a me retrogusto. Mi hanno cambiato le cuffie, io sono maniaco su queste cose. Un retrogusto un po' amaro. No, mi hanno cambiato le cuffie e mi sento un po' diverso. Non sono tre giorni che mancano le vacanze. Allora, io ho detto che è una delle cose più ignominiose della storia d'Italia, suggerito ovviamente da Lorenzo Nespoli. Faccio la spia milanista come me. Il triplete dell'Inter, eccola qua. Allora, la nostra Silvia Brasca, interista, verace. Buongiorno. Il triplete logora chi non ce l'ha. Sì. Tipo la Juve non ce l'ha. Ecco. Difatti. Quest'anno ci sono andati vicino, peccato. L'hanno sognato. Ma c'è sempre l'anno prossimo, adesso non si può mica, chissà, mica incontreranno sempre un Barcellona sulla propria strada. Allora, mi dicono il Milan in Serie B. Stefano da Genova, non lo so, vabbè, non capisco. Forse è una delle cose più ignominiose della storia d'Italia, certo. Può anche essere vero questo. Allora, siamo con Silvia Brasca e Vincino. Oh, sappiate che mancano 4 giorni, poi vado in vacanza. Vi mancherò, Silvia? Un po', sì, certo. Dovevi dire molto, molto, tantissimo. Non riuscirò a svegliarmi. No? 5 settimane da raccontare. 5 settimane. Vincino, mi devo vergognare per 5 settimane di ferie? Riprendo il 30. Assolutamente, anche poche, insomma. Potresti fare 2 mesi come magistrati e avvocati. Finalmente uno che dice le cose come stanno. Guarda che poi i magistrati, se ti sentono, dicono che non è vero, che sì, no, che casa loro quando stanno dal mare in vacanza scrivono le sentenze che poi dopo non sono accusate. Stupalle, dai. Non ci credi, però, che scrivano le sentenze a casa, no? Nella villa al mare con i faldoni, non te li vedi a scrivere le sentenze, no vabbè. Ha dei dubbi, è Vinci. Una scusa, diciamo, di basso livello. Va bene. Dai, apriamo il Parlamento, perché qui c'è la vignetta di Vincino sul foglio con il governo Renzi. C'è un Renzi steso sul lettino della sala operatoria, lo stiamo perdendo, il polso è debole. Ma come, anche Renzi è debole, vero? E qui è il disastro, che dopo Renzi abbiamo quelli là. Io chi sono quelli là? Sono i 5 stelle, sono 5 stelle. Io qua sono vicino, tra poco, quando se cade la Sicilia, cade Roma, sì, che come dire, devono cadere, perché sono due cose insopportabili. Sì. Poi cade il Renzi, c'è 5 stelle, è un disastro qua. Tu immaginati. Sicilio, guarda. l'ha già detto Crocetta, ma io infatti qua mi butto alla fine, apro la porta finestra, che sono qua sul giardino e via. c'è un gradino di 10 centimetri e... no, cioè fammi capire, se la Sicilia cade Crocetta, perché Crocetta, il Corriere dice che ha detto datemi un mese e poi andiamo a votare, quello, quindi, ecco. Quello fa da Genova sino a Palermo a Nord, quindi, no, ma sì, esatto, fammi capire se come direbbe Renzi, se cade Crocetta c'è il rischio Movimento 5 Stelle di Sicilia, tu ti suicidi? Ti suicidi? In Sicilia no, a livello nazionale diciamo, cominciamo a farlo subito perché poi come dire. No, perché poi sono incapaci totali a tutto. Cioè, per dire, ieri c'era un senatore con la testa esagonale che interveniva su questi sequestrati in Libia. Chi era? Dopo dice: ah, ecco, già il governo pensa a pagare il riscatto. Ecco, in Italia, quando all'epoca quando c'erano tanti rapimenti, noi riuscimmo a sconfiggere non pagando il riscatto. Le cose. Cioè, ogni cosa intervengo così per dire, so, quello dice e quello dice, senza cognizione di senza causa, cognizione di niente. Come dire. Silvia, lui ama molto quello del Movimento 5 Stelle, è ricambiato anche, ogni tanto lo fermano qualcuno. Vabbè, ma Silvia, tu ti sei fatto un'idea, te l'ho chiesta anche l'altra volta, cioè, diventa il giallo dell'estate questo di Crocetta, non si capisce. Ma guarda, secondo me Crocetta ha dei problemi molto grossi già da mercoledì, sì. Ecco, l'intercettazione è uscita giovedì, io sono convinta, sto seguendo la cosa della Sicilia anche da qualche mese, che sia la Grecia dell'Italia. È vero, oggi Lucia Borsellino dice che sulla sanità lei stava facendo anche un buon lavoro di contenimento dei costi, ma leggere quello che è l'Assemblea regionale siciliana, altro che Grecia. Quindi lui non era riuscito davvero a incidere, e ha ragione Vinzi, assolutamente. E faceva acqua da tutte le parti. Sì, è un colpo di grazia maldestro questo, sì, di questa intercettazione che c'è. Però c'è colpo di ambientale, forse di Caltanisetta, sul metodo si può parlare, ma il caso Crocetta c'era ed era lì. Insomma, siete la Grecia d'Italia, Vincino, hai capito? Siete la Grecia d'Italia. Questo. Ma non lo so, questa è, diciamo, c'è sì, da tutta una parte di città che tutte sono state fondate dai greci, queste arrivano con i barconi. La Grecia moderna. Mi piaceva di più quell'antica idea. Lo so. Cose, devo dire che però, come dire, una Sicilia indipendente avrebbe un PIL molto, molto migliore di quello della Grecia. Allora arriva un messaggio importante, attenzione, Vincino. Prima di parlare del Movimento 5 Stelle, di 5 Ave Maria davanti al busto di Andreotti che hai in casa. Servo maledetto. Questo. E ce l'ho a Roma, però a Mondello c'ho quello. Ah, perché sei a Mondello? Sì, sono a Mondello, diciamo. Sei andato a vedere proprio la Sicilia. Sono capire? venuto qua proprio ieri a cercare, guardare. A guardare proprio il tracollo, a vedere il tracollo. Sì. Ma come sta il busto? Va in vacanza? Sta benissimo. No, ci sono ancora le figlie, la cosa, il cane. No, il cane l'ama molto perché fa le sue cose là davanti al busto. È la verità, ti mando foto. Cioè, quando no, il cane che oltraggia il busto di Andreotti. Non oltraggia, anzi, omaggia. No, fermati, no, che oltraggio, omaggia, no. Allora, mi devo far sentire Marino è da ieri che, sapete, ha trattato male una signora. Cara Silvia Brasca, non si tratta mai male i cittadini, mai male le persone, mai male le signore, soprattutto. Ma Ignazio Marino, di fronte a una contestatrice, le ha detto: connetti i due neuroni. Ha fatto anche il gesto con gli indici che si toccano. Connetta, è un medico, esatto. Connetta i due neuroni. Proprio ieri che hanno diffuso la notizia che nasce il neurone sintetico. Vediamo, sentite. È la recuperazione di morti, ce la vediamo noi, non da voi, che è uno schifo di città del genere. È la città che si lamentava per il degrado, no? Sentite Marino, concentratevi sulla voce di Marino. Ce le diamo noi. Provi a connettere i due neuroni che ha e a farli funzionare insieme con gli indici, con i ditini che si toccano. Ti provi a connettere. La signora è stata. Aspetta, è stata sentita, si chiama Lucia Rinaldi, vuole querelarlo dal Fatto Quotidiano. Signora Lucia, si è sentita offesa dalle parole del sindaco Marino? Il messaggero, scusate, il messaggero. Di due neuroni? Sì, molto. E che cosa pensa di fare adesso? Che lui pubblicamente mi devi chiedere scusa. Se no, mi rivolgerò a un legale. Sì, no. Perché lui pubblicamente mi deve chiedere scusa. Forse mi ha confuso con qualcuno della sua famiglia. Vincino e Silvia, qui siamo veramente agli stracci. Sì, però lui deve capire. Aspetta. Marino deve capire che lui è là perché ci sono stati 3.900, 4.000 morti al bombardamento di San Lorenzo. Sì, lui è come se là fosse peggio che le fosse ardetine in quell'occasione, tu quando sono 4.000 morti alle fosse 3.900 quanto sono 3 alle fosse ardetine non ti permetti. Però è la questione che proprio Marino si è proprio arrabbiato dicendo lui alla signora: signora, porti rispetto alla giornata in cui siamo, alla commemorazione, mi viene a parlare dello sporco proprio mentre... E fa la battutaccia? La battutaccia con Netta... Berlusconi ha mai fatto una stupidaggine simile. No, con Netta due neuroni... Cioè, Marino è un altro fuori di testa tipo Crocetta, che ha pensato al suo figlio, a cosa, quell'altro... Silvia, tu che l'hai difeso anche un po', però questa veramente ha perso un po'... Vabbè, certo, questo è indifendibile, ha detto quello che pensava, ha detto quello che penso anche io quando vedo questi che sono lì e che urlano, è lo sporco. Ha ragione, ha pensato una cosa secondo me condivisibile, non era il luogo, però proprio non si fa, è scomposto, totalmente scomposto. Ricorda Vincino che però Berlusconi dava dei coglioni a chi non lo votava, quindi non è che sono tanto distanti, me lo ricordo bene. Lima adesso diventerà un ospite fisso di qualche talk show, di qualche tuo ospite. Questa Lucia Rinaldi è intervistata un po' da tutti, oggi è anche intervistata su Libero, è un po' Lucia Rinaldi, il quarto d'ora di celebrità non si nega a nessuno, però, anche a chi ha due neuroni. Roma è sporca, eh? Ah, vabbè, è sporca, sai. Cioè, noi abbiamo 10 cassonetti di fronte al Colosseo, pieni di sempre pieni di cose, 10 cassonetti di fronte al Colosseo. Io non lo so, ma cioè, per dire, ieri era all'aeroporto a Ciampino, a un certo punto, ed era la sala piena di gente, Ryanair, che tutti, pulita. Perché appena c'erano due persone con la scopetta, arrivano dietro più. Cioè, come dire, si può tenere un posto come il Colosseo, come il coso, con qualche persona che con la scopetta leva, pulisce, fa e cosa. Roma è sporca. Roma è sporca, sancisce Vincino. Vabbè, aspetta un attimo, devo andare al traffico, poi rientriamo, siamo qui. A Milan! Io voglio sentire il traffico! 24 mattino. Caro Milan, vorrei lanciare un concorso a premi per dare un nome alla nuova tassa che i comuni metteranno nel momento in cui Renzi toglierà l'IMU sulla prima casa, perché è chiaro che lo Stato toglie l'IMU sulla prima casa, ma i soldi che derivano ai comuni, chi glieli darà più? Le tue sono sempre le grandi stronzate, sempre a difendere tutti tranne gli italiani, rimbambiti. Complimenti per la trasmissione. Lei è un giornalista con le 3P. Come professionista, preparatissimo e paraculo. Complimenti. Oh Milan, solo 5 settimane di ferie? Mi sa che ho sbagliato lavoro. Dovevo fare il giornalista, non il camionista. Ascoltate gente, ascoltate, adesso Alessandro il grande comunicatore vi racconterà tutte le cazzate della politica e come Renzi, Berlusconi, Grillo e compagnia vi piglieranno come sempre per il fondo dei garzoni. Ciao Milan, che te pozzino via fuoco. Va bene, siamo con Silvia Brasca del TG della 7 con Vincino, ma credete a questa storia delle tasse da tagliare? Mamma mia, sta storia, Vincino, ti taglia l'IMU, ti taglia la TASI. La storia è questa, lui mi fa le riforme, poi io faccio le riforme, tu mi paghi le tasse, come dire, e io? Questa cosa riforma tasse, secondo me l'ha fatto l'errore... Proprio, e poi non doveva farla partire dalla casa. Hanno ragione gli altri, a partire da quella che nel casa, 2008 ci aveva levato. Sì, come dire. Perché tutto il pensiero andava là, e quella là come, è berlusconiana, è una riforma berlusconiana. Sì, ma anche lui c'ha i fedelissimi, c'ha insopportabile. Lui doveva prendersi al governo anche lui insopportabile. E con i nemici organizzare. Sì, ma giustamente arriva una domanda. Ma chi vuole Vincino al governo? Ma tu chi vorresti? Ma io faccio l'altro lavoro. No, va bene, ho capito. Però avrai un pensiero. Chi vorresti mettere? Sono 3 mesi. Chi vuoi? I radicali? Assolutamente sì. Alla giustizia vorrei sicuramente una riforma radicale. Alle carceri metterei sicuramente Rita radicale. Bernardini alle carceri, assolutamente. Cioè, radicali. Quindi premier chi? Pannella. No, premier. Vabbè, però Pannella lo farei senatore a vita. Ma chi se ne frega del senatore a vita, dai. No, è premier, non lo so chi fare, ancora non ci ho pensato. Non ci ha pensato. Vabbè, dai, Silvia Brasca, tu l'hai chiesto e tu lo tieni, Berlusconi, così. Tu l'hai chiamato. Che saremo ancora lì. Sapete perché sono sicuro? Perché ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possono votare facendo il proprio disinteresse. Tu l'hai chiamato e tu l'hai ottenuto. Poi hai chiamato anche Brunetta, lo so, volevi sentire anche Brunetta. Lo so, io ti anticipo i tuoi pensieri, so che volevi sentire il Brunetta del giorno sulle tasse. I miracoli una volta li faceva Padre Pio, adesso li vuol fare anche Renzi. Penso che non ci riuscirà, fa sorridere, un po' spudorato, ripeto, non è Padre Pio. Non è Padre Pio, e questo, su questo possiamo essere d'accordo con Brunetta. Perché è Padre Pio secondo te, Renzi? Padre Pio secondo me è un santo sciita, no? Delle cose. È l'unico santo, da sicuro. Sì, no, veramente. Guarda, io ho conosciuto un sacco di extracomunitari che tutti proamavano Padre Pio. Vabbè. Cioè, proprio islamici, musulmani, cose qua. Però Padre Pio è un amore internazionale, confronto di Padre Pio. Vabbè, ma Silvia, tu credi che tagli le tasse, Renzi, oppure no? Farà una super cazzola e farà finta di farlo, insomma, qualcosa dovrà fare. Certo che ha spostato tante cose, ha spostato il dibattito con questa mossa. Secondo me farà qualcosa e secondo me sa già più o meno cosa fare e la farà, non come l'ha promesso, ma qualcosa secondo me la farà. Qualcosa deve fare. Un piccolo taglio. Vabbè, insomma, ha annunciato un mega taglio di tasse, per la verità. Quindi, però, secondo te Vincino ha sbagliato a partire dalla casa? Non doveva toccare la questione perché era di Berlusconi? No, c'è una tassa abolita nel 2008 da Berlusconi con tutti contro quelli del PD. Lui non può ripartire da quello. Perché là nel campo ce ne sono tante di mosse, di cose da fare, no? Basterebbe chiedere agli intelligenti, non ai fedelissimi. Non ne ha l'intelligenza a fianco. Chi doveva mettere al governo di nemici? Chi doveva mettere? Cioè, non lo so, ma mo mi stai chiedendo troppo tu, però. Allora, chi è il nemico di Renzi? Chi è? D'Alema? Renzi ne aveva tanti nemici di ogni genere, ma l'Italia è piena di persone intelligenti, assolutamente. Ho capito, e invece tu non le vedi lì, non le vedi. Ma chi è il meno intelligente che vedi al governo? Cioè, là lui vedo che si è messo, no, quello là, il nuovo capogruppo alla cosa, e quella, insomma, come dire, c'aveva speranza, no, se lo leva per mettere quel Rosato là, era cosa che... Tu ce l'hai con Rosato, ma che t'ha fatto perché, Rosato? No, perché vedo come un ex peone democristiano che diventa, per la sua fedeltà, per la sua... Ma tu che c'hai il busto di Andreotti, di Andreotti, ma è un residuato della grande stagione del male, è una cosa storica contro, pure in galera. lo so, ce l'hai raccontato. Sono disposto a venderlo, come dire, cioè, ci faccio un giornale. È da sei mesi che vuoi cercare di venderlo. Nessuno se lo compra. In effetti l'asta per l'acquisto del busto di marmo di Andreotti è ancora aperta. È andata deserta. Che

i fanatici di True Detective, la serie che da dipendenza o fa da terapia. Maria Laura Rodotà, molti mi odieranno, anche Lorenzo Nespoli, perché dice: la guardo tutti i giorni una pagina su True Detective. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, sono le 8:19 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ve l'ho chiesto ieri, ve lo chiedo anche oggi: ci credete a questo shock fiscale, il taglio delle tasse, 50 miliardi di Renzi, vi taglio le tasse sulla casa, vi taglio le tasse alle imprese, metto meno tasse sulle pensioni, sui redditi degli italiani, 50 miliardi. Oggi Giuliano Ferrara sul Foglio scrive: ah, godo a sentire Renzi che parla come Berlusconi, io che ho, come dire, il copyright di Matteo Silvio. Gli italiani invece che pensano? 800 24 00 24, ve lo chiedo, Renzi. È un patto che io propongo agli italiani: se le riforme vanno avanti, noi saremo finalmente in condizione di abbassare di 50 miliardi le tasse nell'arco di 5 anni. O per carità, poi come al solito basta aspettare e vedere, tutto molto chiaro. Il sospetto mio, già da ieri l'ho detto, è che magari sei un po' in difficoltà. Prima regola della buona politica, se sai comunicare, è cercare di spostare l'attenzione dalle difficoltà, e quindi annuncia un bel taglio di tasse che intanto tutti ne parlano. Brunetta non ci crede, ma questo è un po' comprensibile dal centrodestra. Beh, i miracoli una volta li faceva Padre Pio, adesso li vuol fare anche Renzi. Penso che non ci riuscirà. Fa sorridere, un po' spudorato. Ripeto, non è Padre Pio. Ma anche da sinistra, se volete, i sindaci, visto che togliendo le tasse sulla casa, i sindaci si troverebbero con meno soldi. Per esempio, Luigi De Magistris, che ieri era ospite ai nostri microfoni, sindaco di Napoli, è stato durissimo. Renzi è un mattaccione e furbaccione, ma ora non ci fa più festa, perché sono anni che noi subiamo tagli. Quindi Renzi sta un po' creando in Italia una piccola Grecia, ci sta strangolando ogni giorno. Questo De Magistris, e speriamo che non finisca come la Grecia davvero. Vabbè, magari difficoltà perché ti ritrovi a gestire una situazione quotidiana che anche tutti i giorni viene raccontata, anche ieri, da Paolo Del Debbio sulla questione immigrati, un po' così. Paolo Del Debbio, buongiorno, ciao, ben ritrovato. Buongiorno, Un po' così, beh, no, dico, la situazione, ti sembra da Stato civile la gestione? In quel senso. No, cioè è proprio una non cosa. Non ne parliamo neanche. Mi sembra abbastanza incredibile che uno Stato civile e democratico, quale è l'Italia, o quale dovrebbe essere l'Italia, debba trovarsi con comunità in subbuglio, proteste, politici magari che cavalcano. Le cose in modo irragionevole, Comunque, insomma, con Paolo Del Debbio, che conduce dalla vostra parte ancora lì, fino a quando vai avanti? 31 luglio, come te. Ah, come me. No, io finisco il 27, venerdì. Venerdì. Io finisco venerdì questo. Con Paolo Del Debbio e Claudio Velardi, manager, imprenditore, ma insomma anche grande e attento osservatore delle cose politiche. Velardi, buongiorno, come va? Buongiorno a voi, bene. Allora, che dobbiamo dire? È uno spottone questo Velardi? Insomma, tu l'hai detto prima, in un paese serio per liquidare la faccenda bastano poche righe. C'è un tizio, un capo di governo che dice che fa un piano di riduzione delle tasse nel 2016 sulla casa, 2017 imprese, 2018 per i lavoratori. Dopodiché si voterà. Se questo signore le cose le avrà fatte, presumibilmente vincerà le elezioni. In caso contrario andrà a casa. Fine. È davvero spot, così, ma non c'è memoria, spot, non c'è memoria nella politica. No, mio caro, fermi tutti. Quando si parla di tasse, la memoria dei cittadini è 100 volte quella di un elefante. Sì. Se questo signore non mi taglia le tasse, il 2018, io che non vado a votare da tanto tempo, gli vado a votare contro, ma è matematico. Ah, Velardi, perché Velardi non voti da tanto tempo? Ma perché mi hanno scocciato un po' tutti. Per la verità ho votato nel 2014 perché una mano gliela volevo dare al giovanotto di Firenze. Però davvero votavo dal 2000, vabbè, ma è poco importante. No, era una curiosità, infatti. Non però è... sulle tasse il tema è talmente cruciale che questa storia, questo annuncio che ha fatto, gli italiani non se lo scordano più. Ma sicuramente... i 5 Stelle sono disperati quando dicono non se ne parlerà più tra 2 giorni, è una balla colossale. Ma no, ma se non ne parlerà, certo si parlerà, da questo punto di vista Renzi ha centrato in pieno appunto l'aspetto comunicativo, l'agenda politica, politica da qua ai prossimi 3 anni è segnata da quello che ha detto Renzi. Sì, però si parlerà di che cosa? Ci sono le coperture, non ci sono le coperture, le coperture sono un problema di Renzi, non è un problema mio. Renzi le coperture le deve trovare se vuole fare queste riforme. Peraltro, siccome le deve trovare per forza, perché altrimenti è l'Unione Europea che ci mette il bavaglio e ci dice voi non vi muovete, non fate quello, se non fate quello che dovete fare in termini di tagli di coperture. Quindi il dibattito che è in corso tra i tanti ragionieri aspiranti bocconiani italiani, diciamo così, è un dibattito totalmente fasullo. Le coperture sono un problema di Renzi, mica sono un problema però, dei cittadini. Però vediamo, ma è chiaro, Claudio Velardi dice che sulle tasse, e questo è vero, gli italiani sono molto molto attenti, e su questo non c'è dubbio, hanno anche la memoria lunga, però ricordiamo che spesso si è detto taglieremo le tasse, poi è arrivata la crisi, è arrivato l'11 settembre, non vorrei che qui Renzi dicesse ho detto fate le riforme e vi taglio le tasse, e non fate le riforme, allora vedete, colpa vostra, non vi posso tagliare le tasse. Cioè una scusa, il sospetto c'è sempre per dire non l'ho fatto ma non è stata colpa mia. Ma vorrei sentire da Paolo Del Debbio, uno che ogni giorno racconta il paese reale, appunto stando dalla parte dei cittadini. Allora, Del Debbio, questa storia delle tasse è una cosa che va a toccare il portafoglio degli italiani, quindi sarà importante, saremo tutti attenti a capire che farà Renzi. Sì. Velardi, che in modo reverente saluto, ricambio la reverenza naturalmente. Ha ragione a dire che è un tema talmente forte che poi sono problemi di Renzi vedere come fa eccetera eccetera, perché poi dopo lo puniscono i cittadini. Però c'è un però, che anche il tema delle tasse, caro Velardi, siccome non è più un tema nuovo come lo era prima del 94, perché prima del 94 era un tema diverso, no? Poi dopo, dal 94 in poi, è diventato meno tasse per tutti, tutte queste cose qua. E anche su questo tema c'è un po' di scoraggiamento, diciamo, da parte dei cittadini. E con lo scoraggiamento, come posso dire, non ci credono un granché, almeno dal mio personalissimo punto di vista, e quindi diciamo la mettono tra le cose, sì vabbè lo dicono ma poi non lo fanno, e quindi in questo senso poi la memoria cala quando sei scoraggiato, perché dici vabbè ma sì vabbè è un altro che lo dice, ecco. Io quello che ho visto un pochino, l'atteggiamento è questo, è lo scetticismo, è un altro che lo dice, poi dopo magari lo puniranno, però guarda Claudio, anche su tante altre cose si aspettano e sono un po' demoralizzati, insomma io non lo so se avverrà così, ecco, perché li vedo, insomma l'abbiamo già sentito tante insomma volte, l'atteggiamento dell'italiano è mediamente scettico, a dire l'abbiamo sentito, però giustamente Velardi dice mo adesso aspettiamo l'anno prossimo, se toglie davvero la tassa sulla prima casa. Ma Del Debbio, è una mossa berlusconiana, cioè ha ragione Ferrara a gongolare, a godere, dice beh è proprio come Silvio Berlusconi, no, già la tassa sulla prima casa. Del gongolio di Ferrara francamente me ne fotto, cioè no, non è che mi interessa più di tanto, non vorrei analizzare il gongolio di Ferrara, no, non me ne frega niente, le sue tesi, se le tesi, che buonanotte. No, la storia e vedere come fa. Nel senso, a me incuriosisce un pochino vedere come fa, perché questi miliardi che deve trovare quest'anno, il prossimo anno e quello dopo, per non aumentare l'IVA sono tanti, no? Quindi sì, già sì. C'è quelli. E quindi voglio vedere come fa. Oh, un po' di curiosità io da questo punto di vista ce l'ho. È chiaro, la curiosità di capire, di capire come fa. Perché non so quanto costa il prossimo anno, ma intanto ne deve trovare 16 entro fine d'anno. Poi ne deve trovare, mi sembra, 25 sì. Il prossimo senza calare le tasse. E poi ulteriori altri prossimi. Sì, però Velardi dice che sono problemi suoi, diciamo, come li trova. Insomma, se ce la faccio tutti i soldi. Cioè 50 miliardi in un anno in tre anni no ma infatti no in tre anni no. Il prossimo anno sarà tre anni 25 per non aumentare l'IVA e per non aumentare l'IVA della sua finanziaria e di quella diretta poi a questo c'è da aggiungere la quota parte di 15 per diminuire il disastro però giustamente Velardi dice ha detto che lo fa, vediamo. Mettiamolo alla prova. Però io vorrei capire, Velardi è sicuramente ha spostato e ha dettato l'agenda. Lo ha fatto anche perché è in difficoltà, per esempio, su questa vicenda degli immigrati, che mi sembra una cosa paradossale, cioè che un paese debba gestire. Ma lo sapete che hanno dovuto cacciare un prefetto? Hanno cacciato il prefetto di Treviso perché hanno detto che non è stato in grado di gestire. È quello della questione di Quinto, eccetera. Cioè, ma che stato è quello? Però forse sì, certo, è questione di uno stato che è un colabrodo, non c'è dubbio. Però è anche questione quello che un po' diceva Paolo prima: cioè c'è un paese scettico, demoralizzato, che come dire, tende a ritrarsi, ad avere paura un po' di tutto. E quindi, come dire, ci sta anche che accadano cose del genere. Naturalmente da parte dello Stato ci vorrebbe una risposta nello stesso tempo più ferma e più tranquillizzante, mentre invece lo Stato appare sempre incerto, spaventato esso stesso, non sa bene come comportarsi, diciamo, di fronte a situazioni inedite. E tutto questo affonda, certo, su un orientamento dell'opinione pubblica che non è brillantissimo, non è che viviamo in una condizione in cui tutti quanti i cittadini sono felici, diciamo. Sì. A maggior ragione, appunto, questo spostamento di agenda poi sarà strumentale, sarà dovuto a questo, oppure a Marino e a Crocetta, che ne so, però c'è lo spostamento d'agenda. Cioè, finalmente si comincia a parlare cose importanti, di cose che toccano le tasche dei cittadini. Se posso dire un'altra cosa, sì, a proposito di Berlusconi, sì, io dico una cosa in più: la mossa di Renzi è berlusconiana al cubo, non neppure al quadrato, perché mentre Berlusconi nel 2008, prima delle elezioni, promise il taglio della tassa sulla prima casa e poi lo fece, ma questo avvenne in campagna elettorale e due mesi dopo Berlusconi vinse e tolse la tassa. Lui adesso invece fa una mossa molto più ardita e spericolata. Sì, non deve vincere le elezioni. Da qua ai prossimi tre anni, cioè non deve vincere le elezioni, da qui ai prossimi tre anni. Cioè noi questo Renzi lo teniamo adesso inchiodato al muro lì e ogni volta che ci sentiremo, caro Alessandro, così come fai tu con la storia delle province, no? Sì, la 117esima settimana, noi diremo: beh, caro Renzi, è la quarta settimana. Sì, però ci sono già alcune cose sulle quali annunci sono fatti e magari non vengono seguiti. Per esempio, ma vi ricordate che appena 20 giorni fa si parlava di un celeberrimo piano B sui migranti? Cioè ha detto: se l'Europa non ci aiuta, abbiamo pronto il piano B e faremo da soli. Allora, l'Europa non ci ha aiutato tantissimo, dovevamo prendersi 40.000, ripartirsi 40.000 migranti, se ne riallocheranno 32.000, per carità, è già un passo avanti, ma 32.000 su 40.000. Paolo Del Debbio, è il momento di svelare questo piano B a questo punto, perché ne abbiamo bisogno, vorremmo sapere di che cosa si tratta. Tu hai capito se c'è, esiste, cos'è? Il piano B sostanzialmente erano, pensate che novità, se ne parlava già nel 99, i rimpatri. Dico il 99 perché Velardi era al governo. Ho capito, il rimpatrio, se uno è clandestino, il rimpatrio... Si parlava dei rimpatri, e ora la soluzione magica sono i rimpatri. E ora, questi, diciamo, tutte queste migliaia che dovrebbe prendere l'Europa, Vediamo, perché lì ci sono vari problemi per prendere quelli. Anzitutto vogliono l'identificazione fatta in un certo modo. Secondo, vogliono essere loro a venire in Italia a farla, e a questo punto li capisco pure. Terzo, non sono pronti i centri di accoglienza. Ti ricordi, ricordi i famosi hotspot, li chiamano così? Benissimo. Quindi, intanto ci vogliono quelli, poi si procederà ai rimpatri. Quindi vedremo. Non è una cosa che ora domattina. No, che si fa domani. Ne partono 35.000, No, infatti. Ieri deciso, domattina parte, arrivano in pullman, ho scritto Unione Europea, e partono sti qua e vanno chi da una parte, poi ho visto 1204 in Irlanda, sì. 1122 in cosa. Sì, mi sembra anche una divisione aritmetica che alla fine arriveremo a dover dividere una famiglia. 1002 da una parte e 240 dall'altra. Nel frattempo in Italia, diceva Velardi il Colabrodo, allora la cosa più preoccupante, no? Secondo me, e che dà veramente il senso di una irrazionalità e di una disorganizzazione assoluta, e questo è la ripartizione, perché io non lo so cosa mi... Allora, tagliando la testa al sindaco di Treviso, benissimo, perché prefetto, scusate, al prefetto di Treviso, perché a Quinto di Treviso è successo un casino che a un certo punto una mattina in questo condominio arrivano 101 immigrati, non lo sapeva nessuno, neanche il sindaco che l'ha saputo. 40. Questo fa capire il pressapochismo della cosa. Cioè, ma, no, in una comunità di mamme, di donne abusate, eccetera, che tra l'altro devono vivere in un certo riserbo, no? Perché non è che sono venute via da situazioni, da uomini, da situazioni dove se ci tornano, se questi individui hanno dove sono, non rischiano nulla. Ecco, bene, in quella situazione lì. A Livorno ci hanno messo sindaco di Livorno, è leghista, no? Se non sbaglio. No, è del Movimento 5 Stelle, Nogarino. Sì, sbaglio tutto stamattina. Movimento 5 Stelle, ecco lì ci hanno messo quattro ragazzi immigrati di 17 anni, e tra l'altro hanno fatto una rissa, no? E li hanno messi accanto a queste donne qui, che già hanno qualche problema. Cioè, è tutto così, è il pressapochismo. Tra l'altro. Allora, io dico, scusate, le quote è complicata, il rimpatri è complicato, ma questo problema specifico di cui sto parlando, questa è tutta responsabilità dell'Italia, e non è complicato fare in modo più ragionevole. Infatti, io continuo a insistere che non è una gestione da stato civile. Intanto ci dimentichiamo, riprenderemo tra tre minuti qui dopo la pubblicità con Claudio Velardi e Paolo Del Debbio. Ci siamo dimenticati che ci sono quattro italiani rapiti in Libia? No. Oggi Domenico Quirico sulla Stampa, lui è un giornalista, è stato rapito in Libia e in Siria, è stato tenuto vari mesi, dice: o Occidente, è una proprio un'invocazione, o virgola Occidente, ma ti svegli o capisci quello che sta succedendo al di là del Mediterraneo, o facciamo finta di niente? Perché c'è un paese allo sbaraglio e ci sono persone che rapiscono a volte per fare anche cose che non voglio neanche citare, a occidentali. Ne parliamo tra poco, ci raggiungerà Gianluca Salviato, che è stato 8 mesi rapito in Libia. Insieme a Claudio Velardi, insieme a Paolo Del Debbio, stiamo parlando di tasse, stiamo parlando dell'emergenza immigrazione, ma ci dimentichiamo, e già fa un po' specie dire emergenza immigrazione, lo dico anch'io, e mi contraddico, perché è incredibile che da 20 anni ci siano questi flussi e tutte le volte la gestiamo come se fossimo presi alla sprovvista, no? Come se fosse una situazione emergenziale, quando dovremmo essere ben pronti, vista anche la nostra posizione geografica, a gestire questa vicenda. Comunque, dimentichiamo che ci sono al di là del Mediterraneo quattro italiani che sono stati rapiti, sequestrati da 2 giorni in Libia. non lo dimentichiamo. E voglio salutare Gianluca Salviato, che è stato rapito in Libia, è stato 8 mesi in mano ai rapitori. Salviato, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Perché oggi La Stampa, con Domenico Quirico, anche lui ha avuto un'esperienza da sequestrato, ha detto: Occidente, sei disattento, sei pavido. Allora Salviato, la faccio anche a lei la domanda: siamo disattenti, sottovalutiamo quello che sta succedendo in Libia? Io credo di sì, che si stia sottovalutando. L'Europa e l'Occidente non ha coraggio di schierarsi con una delle due parti. È un grosso problema la Libia, perché comincerà a destabilizzare, secondo me, anche i paesi limitrofi. Senta, anche lei era lì a lavorare in Libia, una situazione simile, non possiamo dire molto di più che simile, perché non sappiamo chi ha rapito questi 4 connazionali. Mi ha molto colpito leggere oggi su Repubblica che ci sarebbe anche la rabbia del governo italiano, perché queste persone si sarebbero mosse senza scorta. Ma le pare possibile una cosa del genere in Libia? Beh, io ero anch'io senza scorta, Può darsi che si sentissero sicuri venendo dalla Tunisia e andando verso la zona di Zuara, che è sotto il controllo delle milizie di Misurata, che sono le milizie islamiche. Io penso che l'azienda si sentisse sicura. Certamente in quelle zone là, se giri senza scorta, ti esponi molto molto di più a situazioni del genere. È chiaro. Questi 8 mesi lei li ha raccontati varie volte, sono stati 8 mesi anche molto difficili, perché è stato in mano a persone che erano di che tipo? Io ero in mano ad Ansar al-Sharia, cioè? Sono stato preso in Ansar al-Sharia, che è quel gruppo di Al-Qaeda, che prima era di Al-Qaeda, adesso è passato in ISIS. Quindi possiamo dire terroristi islamici proprio? Sì, erano terroristi, non erano neanche tutti libici, c'erano un paio di libici, il resto erano ceceni, siriani, egiziani. Sono stati 8 mesi pesanti e sono persone, io ho detto al mio parroco, sono persone senza, che hanno perso la pietà e hanno perso il rimorso. Non hanno rispetto per la vita umana e quando sei in mano a loro sei un oggetto, puoi aspettarti di tutto. Fortunatamente però per lei c'è stato un epilogo positivo. Possiamo sperare che sia così, perché sa, se lei dice in mano a terroristi islamici, le scene, le immagini le vediamo tutte. Ma sai, io credo che comunque in Zuara, siccome la zona è in mano alle milizie di Misurata, io credo che siano delle tribù o dei delinquenti locali, perché comunque la parte ISIS e i terroristi sono in Cirenaica, sono nella non zona sono di Derna, Benghazi, Beida. Lì ci sono le milizie di Misurata e controllano il territorio capillarmente. Quindi secondo lei è più presumibile pensare che sia un sequestro a scopo di estorsione, diciamo, per richiedere del... Può essere, poi ci sono 100.000 variabili, però la zona è anche quella dove è stato preso Marco Vallisa, no? Sì. E quindi là ci sono queste tribù che per poter avere denaro o armi o qualcosa sono disposte a fare a tutto. Claudio Velardi, qui la situazione lo stiamo sottovalutando, quella che è una vera polveriera, un vero problema che è al di là del Mediterraneo, quello della Libia. Non c'è alcun dubbio, naturalmente in questo caso il problema non è nostro italiano in senso stretto, anche se poi purtroppo noi siamo in questa circostanza come quella della persona che parlava prima, siamo colpiti direttamente. Il problema è europeo, è del tutto evidente che si misura sulla questione libica come su altre, compresa quella dei profughi e degli immigrati, l'inconsistenza politica dell'Europa, perché per quanto noi, devo dire, abbiamo un ministro degli esteri che sta gestendo questa vicenda come le altre, che si trova ad affrontare in maniera prudente, misurata e anche accorta, mi pare, però naturalmente sul piano politico generale è l'Europa che deve decidere una linea sulla Libia, che non ha, che sceglie di non avere, e colpevolmente, diciamo, poi finisce per sottovalutare questa che è una polveriera che scoppia, sì, che scoppia, diciamo, periodicamente, certo, come dice Quirico giustamente stamattina. Sì, nella nostra quasi totale indifferenza, più che indifferenza, Quirico dice la nostra incapacità di sapere che cosa fare, perché lì Paolo Del Debbio non sappiamo cosa fare, cosa abbiamo fatto lo abbiamo visto, abbiamo fatto una guerra e tutti adesso a dire abbiamo sbagliato eccetera, però non sappiamo cosa fare e la Libia è lì a due passi, non è che è a 8000 chilometri. Un colpo ci pensiamo noi, un colpo come dice Berardi ci deve pensare l'Europa. L'argomento, come è noto, è da qualche tempo che è anche sul tavolo dell'ONU, non è che non c'è, e ad oggi non si è deciso ancora nulla in quella sede. Si aspettiamo i tempi dell'ONU. Sì, lo so, d'altra parte gli strumenti sono quelli, siamo tra la Mogherini e l'ONU, nel senso Mogherini non che è responsabilità sua, ma che dovrebbe in qualche modo appunto essere la capofila, diciamo, nel gestire questa cosa. Dopodiché io ricordo che per la verità all'inizio di quest'anno d'inverno, quando fu chiusa l'ambasciata, no? E fu detto agli italiani: badate che se rimanete lì avete dei problemi, lo ricordate tutti che lo disse il ministro della Farnesina, no? L'ha ripetuto varie volte: venite via, perché lì così. Dopodiché, allora io capisco che ci sono delle imprese, che ci sono degli interessi, che ci sono, non è che si può fare tutto, però in qualche modo diciamo ci fu una presa di posizione che disse attenzione, perché non siamo in grado di garantire nulla. No, anche perché mi colpisce che, questo è quello che, c'è stato detto. Che non ci siano le scorte, però anche lei Salviato dice non aveva la scorta all'epoca, non c'è una sottovalutazione evidentemente del pericolo. Salviato, è caduta la linea con Salviato. Sì, è non caduta c'è più. No, non c'è più, non c'è più. Vabbè, niente. Magari io ritengo di sì, cioè voglio dire, tutti questi avvisi qui che ci sono stati, insomma, che ce li siamo dimenticati, ma io ricordo che ci fu una cosa martellante per un mese, lo ricorderete anche voi, quando ci fu la chiusura dell'ambasciata, il ritiro dell'ambasciata, no. E si disse, ma infatti, appunto, abbiamo recuperato Salviato, come mai senza scorta? Come mai senza scorta? Anche lei non c'è una sottovalutazione e forse ma perché punto... lì non ci sono zone di, non c'era una guerra in campo aperto, no? Lì sono magari fanno un combattimento a Zuara, un combattimento a Bengasi, un combattimento ma appunto per quello ho capito, insomma, cioè, sono arrivati a Tunisi, sono arrivati no, però ascolti, sono arrivati a Tunisi, da quanto racconta Repubblica, hanno preso un van, cioè un pulmino guidato da un libico che li ha portati come se fosse un autobus nella Libia, cioè capisce che sì, ma era lì è un po' parte dell'azienda che deve partire la scorta, perché se comunque infatti. È l'azienda che deve organizzare i servizi di scorta. Io in tutti i paesi che sono stato, compreso il Congo, la Russia o l'Armenia, comunque avevo il servizio di scorta. Qui no. Mi dica per concludere, Salviato, visto che l'Occidente è fermo, impavido, non sa cosa fare, lei, dalla sua esperienza, perché l'Italia non è un politico, eccetera, ma cosa bisognerebbe fare con questa Libia e con questa situazione? Come la vedo io e dalle informazioni che ho, noi abbiamo riconosciuto, l'Occidente ha riconosciuto il governo di Tobruk, che ha un esercito regolare. È un anno che chiedono che gli venga tolto l'embargo sulle armi. Io credo che anche Haftar aveva detto e aveva chiesto che gli fosse tolto l'embargo sulle armi, che gli fossero dati addestratori e mezzi. Lui riesce con la forza che ha a sistemare la Libia. Finché non ci schieriamo, l'Europa e l'ONU non si dà una mossa a trovare una risoluzione per il paese rimarrà così. Quindi sostenere il governo di Tobruk, lei dice, anche, sì. Anche con armi, armandolo se nel caso fosse necessario. Va bene, io mi devo fermare qui e vi ringrazio Claudio Velardi, Paolo Del Debbio, questa sera ancora dalla vostra parte alle 20:30 su Per Giù, su Rete 4, e Gianluca Salviato, che è stato con noi rapito in Libia per 8 mesi. È il momento del traffico. Allora, sono le 8:52 minuti, ci avviamo alla conclusione, ma c'è Alessandro che ci chiama da Firenze. Alessandro, lei è eletto come l'ascoltatore che parlerà a nome di tutti. Grazie, buongiorno Milan. Dica. che onore. Niente, solo due considerazioni veloci. Prima di tutto Renzi, un mega annuncio, non è nuovo, se vi ricordate l'anno scorso, un anno e mezzo fa, disse grande riduzione, 18 miliardi di riduzione, la più grande riduzione della storia della Repubblica, poi si andava a leggere l'allegato al documento economico finanziario, il carico fiscale era rimasto invariato, diciamo. O forse era calato dello 0,1. Vedremo l'anno prossimo, insomma, no? Sì. Lei l'aspetta al varco, anche come tutti gli italiani. No, ma quello che dice Berardi non è, perché poi la politica hanno mille maniere di offuscare i messaggi. Poi un'altra cosa veloce, può fare una cosa, se fa come ha fatto finora, di 10 trasferimenti ai comuni, alle province, alle regioni, lui dice ha ridotto le tasse, poi ci aumentano le tasse locali. Siamo a posto uguale a prima. Cioè ce l'abbiamo invece che da Roma ce le aumentano da. È quello che ci diceva ieri De Magistris, a dire alla fine se tolgo le tasse ma tolgo i trasferimenti alle regioni e ai comuni, poi regioni e comuni o tolgono i servizi, che in qualche modo è una distorsione del taglio delle tasse, oppure sono costretti a aumentare le tasse locali. Staremo a vedere, Alessandro. L'unica è pensare, appunto, di dire ha detto che farà questo, gli italiani abbiano memoria, se lo farà verrà premiato politicamente, se no no. Non dovrebbe essere questo il senso della politica? Vi prometto che faccio delle cose, se le faccio le mantengo, vengo eletto, se no no. La segreteria telefonica. Caro Milan, vorrei lanciare un concorso a premi per dare un nome alla nuova tassa che i comuni metteranno nel momento in cui Renzi toglierà l'IMU sulla prima casa, perché è chiaro che lo Stato toglie l'IMU sulla prima casa, ma quei soldi che derivano ai comuni chi glieli darà più? Le tue sono sempre le grandi stronzate, sempre a difendere tutti tranne gli italiani. Rimbambiti. Complimenti per la trasmissione. Lei è un giornalista con le 3P. Come professionista, preparatissimo e paraculo. Complimenti. Oh Milan, solo 5 settimane di ferie? Mi sa che ho sbagliato lavoro. Dovevo fare il giornalista, non il camionista. Ascoltate gente, ascoltate, adesso Alessandro il grande comunicatore vi racconterà tutte le cazzate della politica e come Renzi, Berlusconi, Grillo e compagnia vi piglieranno come sempre per il fondo degli garzoni. Ciao Milan, che te pozzino via fuoco. Eccolo qui il nostro Angelino. Noi chiuderemo questa settimana fino a venerdì con 24 mattino, poi 5 settimane di ferie. Come ha detto Vincino, potevo fare 2 mesi come i magistrati, e invece no. Salutiamo tutti i magistrati, eh? E domani li ritroveremo qui alle 6:30 puntuali con 24 mattino. Ciao. Attaccare 24 mattino.